siamo seduti con la schiena eretta. Monitoriamo la colonna vertebrale per vedere che abbia le curve che ci devono essere. Sentiamo di essere veramente in equilibrio col nostro peso. Monitoriamo la posizione del capo. Che non deve essere né troppo avanti né troppo indietro, in modo da essere bilanciato e non fare faticare i muscoli. Possiamo facilitare questa presa di consapevolezza facendo piccole oscillazioni, avanti e indietro, destra e sinistra, o anche rotatorie della colonna vertebrale, del capo, fino a che troviamo quel punto in cui è richiesta la minima energia per mantenere la posizione. Sentiamo i piedi ben appoggiati sul terreno. Sentiamo l'appoggio del bacino e l'appoggio del palmo delle mani sulle gambe. Adesso verifichiamo il peso della mano destra, in modo che essa si abbandoni totalmente. E anche la spalla destra, rimanendo in posizione, si abbandoni totalmente alla forza di gravità. Quindi troviamo la posizione della spalla un po' più avanti, un po' più indietro, in modo che col minimo di forza la spalla sta su e tutto il peso del braccio si scarica sulla mano. Mano destra, mano sinistra. Verifichiamo adesso che i muscoli del viso siano rilassati. Muscoli intorno agli occhi. Muscoli intorno alla bocca, le mascelle e la lingua. I muscoli della fronte, quando questo accade, compare naturalmente la propensione a un lieve sorriso. Ora spostiamo la nostra consapevolezza sui rumori di questo ambiente e sui suoni. diventando consapevoli della direzione da cui provengono. Che la nostra capacità di distinguere si fa sempre più sottile e più penetrante. Là dove percepivamo silenzio, in realtà ci sono un pullulare di piccoli suoni. E mentre percepiamo questi suoni, questi rumori, possiamo spostare la nostra attenzione sulle immagini che si formano all'interno della nostra mente. Se sono immagini distinte o indifferenziate. Schermo della mente non è mai vuoto, c'è sempre qualcosa. È qualcosa che è in continua trasformazione. Osserviamo senza valutare. Osserviamo ciò che arriva così com'è. Mentre osserviamo ciò che vediamo, adesso portiamo l'attenzione al nostro respiro. Ai micromovimenti del ventre, dell'addome, plesso solare e del torace. Siamo totalmente concentrati sul movimento del respiro. Piano notiamo, cominciamo a notare come il respiro coinvolge anche le spalle. È come un'onda che sale dal basso verso l'alto. E poi si sposta, ritorna giù. Ci concentriamo su quest'onda e notiamo ascoltiamo quali immagini questa onda del respiro evoca dentro di noi. Diventiamo consapevoli delle sensazioni che si accompagnano al movimento dell'onda. Sensazioni di apertura o di chiusura, di rilassamento o di costrizione, leggerezza, pesantezza. Diventiamo consapevoli della nostra parte anteriore del corpo, dal ventre fino al torace, quali parti di questa parte sono più aperte, morbide, fluide, e quali parti mantengono ancora contrazione e tensione. E lì dove sentiamo ancora contrazione e tensione, lì è il luogo dove portare compassione. Quindi un luogo dove si è accumulato dolore, che ha bloccato il movimento. Allora possiamo, come governo di noi stessi, utilizzare lo stesso respiro per sciogliere quelle zone bloccate e irrigidite. Visualizziamo questi blocchi nella forma che ci suggerisce la nostra mente inconscia. E poi pratichiamo il Tonglen proprio con questi blocchi. Cos'è il Tonglen? Significa inspirare la sofferenza. Inspirare la sofferenza da questi blocchi, il che significa riconoscerli, vederli, in ciò che per questi blocchi è più importante, il dolore accumulato. Perché noi non siamo questi blocchi. Questi blocchi sono piccole parti di noi che hanno bisogno della nostra cura. E allora noi attraverso il respiro, l'inspirazione, riconosciamo questi blocchi, li andiamo a prendere. Come si fa con un bambino piccolo che è rimasto da solo, che ha pianto tanto e poi ha smesso anche di piangere. questo modo inspiriamo ed espiriamo mandando luce dorata in quei punti. Mentre il ronfare della gattina ci aiuta ad entrare ancora più in profondità. Il sonnecolio inspiriamo il dolore e inviamo luce dorata di guarigione. Lasciamo che la nostra mente profonda utilizzi questa piccola tecnica per trattare le parti di noi che hanno maggiormente bisogno di essere viste, riconosciute e curate. E nel fare questo ci ispiriamo al grande insegnamento di Gesù, ci occupiamo degli ultimi dentro di noi, i reietti dei relitti, quelli che sono visti come un ingombro, un rifiuto. Questo possiamo sentire come il grande insegnamento di Gesù. Possa penetrare dentro di noi e renderci capaci di amare profondamente le cose di noi. Che abbiamo detestato, di cui abbiamo cercato di liberarci. Quelle parti della nostra società interna che sono i reietti, gli ingombri, quelli inutili. Quelli che non vorremmo avere. Quelli che abbiamo giudicato con maggiore spietatezza. Le nostre debolezze, le nostre piccole mancanze o grandi, le parti di noi che abbiamo cercato di nascondere per mantenere un'immagine esterna. Parti che ci avrebbero socialmente indebolito o che abbiamo creduto che ci avrebbero indebolito. Le parti di noi che abbiamo tradito, abbandonato, rifiutato. Domani è Pasqua. La passione di Gesù, la resurrezione, c'è la passione, poi c'è la risurrezione. E la passione è la rinuncia al potere. Cioè la rinuncia a essere separati, a giudicare, a confrontare. Perché quando fai così in un mondo che pratica il giudizio e il confronto, tu diventi innocente, non nuoci più. E se davvero non nuoci più, allora rischi di essere attaccato. E Gesù ha preferito la croce, il supplizio, all'esercizio comune agli esseri umani del potere e dominio. In un campo di concentramento un credente, vedendo impiccare un bambino di 10 anni, si è chiesto: ma dov'è Dio? E una voce interna ha risposto: eccolo davanti a te. È quel bambino impiccato. Impiccato perché innocente. Non nuoce. E allora diventa vittima del potere e dominio. E di questo tutti noi abbiamo paura. Ecco perché colludiamo col potere. Paura di perdere ciò che è il potere, l'immagine, ci possono fornire in una società falsa, basata sulla doppiezza, sulla corruzione. Ma se abbiamo questa paura e assecondiamo questa paura, noi diventiamo corrotti e tradiamo la nostra vera essenza, un'essenza di luce, di purezza, di innocenza. E Dostoevskij ha detto: non ho mai visto nessun criminale o nessun uomo apparentemente cattivo, che al suo interno non avesse ancora una fiamma di luce accesa, questa fiamma inestinguibile. Vedere questa fiamma nelle nostre parti più fragili, nelle parti nostre ultime, nei reietti della nostra società interna. Questo è il compito che Gesù ci ha affidato 2000 anni fa, quando ha detto che il comandamento più importante è amare il prossimo come se stessi. Cioè vuol dire amare se stessi e il prossimo. E amare per Gesù significa amare a partire dagli ultimi, quelli che hanno più bisogno. quelle che hanno più sete, più fame, quelli che sono in preda ai dolori più grandi. E al nostro interno ci sono parti che sono preda di dolori più grandi. Ma noi non seguiamo l'insegnamento di Gesù. Noi critichiamo, condanniamo. Vorremmo non avere queste parti. E questa via non può portare alla guarigione. Perché non può portare all'apertura del cuore. Che significa apertura della mente, della visione, dell'intelligenza. Quando abbiamo il cuore chiuso nei confronti di noi stessi o di altri, siamo ottusi. Ci tagliamo fuori dal fiume della vita. E per qualunque ragione facciamo questa scelta, è una scelta distruttiva, contraria a ogni evoluzione spirituale. Domani Pasqua possiamo ritornare all'insegnamento di Gesù, all'essenza del suo insegnamento. Immaginiamo che torni oggi, è questo che chiederebbe a noi. Sono cose molto semplici. Lui parlava di pescatori, gente semplice. E noi nella nostra essenza siamo molto semplici. Ciò che è complicato è una costruzione della mente condizionata. Ed ecco allora come possiamo praticare il contatto con noi stessi e utilizzare l'ipnosi come risveglio. Noi viviamo addormentati, abbiamo bisogno di svegliarci alla realtà della vita che ci attraversa, nella quale siamo immersi. Continuamente in relazione tra noi, sempre in relazione. In relazione con tutte le parti interne. Siamo un fascio di relazione. Questa è la struttura della realtà, un fascio di relazione in continua trasformazione. Fascio di relazioni e per un principio di entelechia dentro la struttura della vita sta andando verso forme sempre più complesse e organizzate, come sono gli esseri umani. Gli esseri umani stanno evolvendo verso forme superiori di comprensione, di integrazione. Possono farlo. È la mutazione che ci aspetta. Ma questa mutazione, questa trasformazione non può avvenire all'interno, preso isolatamente, avviene nelle relazioni che pratichiamo quotidianamente. E nella qualità di queste relazioni, nella musicalità, nell'armonia, nelle qualità dell'essere che immettiamo, gentilezza, generosità, premura, cura, con cui innaffiamo le nostre relazioni di ogni istante che si gioca, la nostra possibilità di realizzare il nostro vero potenziale. Realizzare ciò che siamo davvero. Gesù ha detto: quando un gruppo di persone si riunisce in nome mio, io sarò in mezzo a loro. E Gesù è qualcosa che è l'alfa e l'omega. Gesù è una qualità delle relazioni. E se comprendiamo questo, abbiamo capito il segreto della vita. Sul tavolo di un monaco c'era scritta una frase: Gesù è tutto o è niente. O davvero siamo totalmente presenti a quel grande insegnamento, oppure siamo dei tiepidi, che tengono i piedi in due staffe. Perché non hanno sufficiente visione. Ognuno di noi, ogni essere vivente cerca la felicità. Per gli esseri umani la felicità è esprimere totalmente chi sono. E noi siamo esseri spirituali, cioè esseri dotati della capacità di vivere in relazioni ispirate all'amore più profondo per gli altri, per noi stessi, per le ultime parti di noi, per quelle che abbiamo sempre condannato, cercato di non vedere, relegato nell'ombra. Quelle parti di cui abbiamo paura perché possono incrinare la nostra immagine esteriore. Paura. La paura guida le nostre vite. Non siamo totali perché abbiamo paura e avremo sempre paura finché non siamo totalmente presenti, totalmente connessi. Allora lì la paura non c'è più, finisce. E così finisce la rabbia e finisce la tristezza. Non c'è più il tempo, non c'è più lo spazio, c'è solo un flusso straordinario di relazioni che stanno evolvendo verso forme più intelligenti. È tutto qua. E noi diventiamo consapevoli di questo flusso. Ne siamo parte e ne siamo consapevoli. E questa è la grande avventura della nostra vita. Ecco perché siamo qua. È il test per sapere se abbiamo compreso. È uno solo. Se il cuore si apre, se scorca la gioia, perché non c'è vera conoscenza, non c'è vera comprensione, se non si accompagna all'apertura della mente, del cuore, e al desiderio di abbracciare, di accogliere, di condividere, di essere insieme. Lasciando andare la tendenza alla separazione, all'individualismo, alla chiusura, a quelle difese che abbiamo eretto a partire dalla nostra infanzia per proteggere il nostro centro del cuore dagli attacchi, dagli attacchi dell'ego, delle strutture egoiche. Proteggendoci siamo diventati quelle strutture lì. Quando abbiamo capito questo, allora possiamo cominciare a lasciare andare. E la prima cosa è diventare veramente trasparenti, dire le cose così come stanno, perché non c'è più paura. Ma solo presenza. E quando c'è soltanto presenza, c'è consapevolezza e amore, allora Gesù è lì con noi. E prima di Gesù, altri grandi dell'umanità che hanno lavorato in questa direzione. Adesso sentiamo come il nostro respiro e comunque esso sia, accettiamo ciò che c'è. Onorando la nostra intenzione di essere qui, presenti e totali. Adesso ritorniamo ai rumori dell'ambiente. La consapevolezza dei piedi sulla terra. Contatto del bacino, peso delle mani sulle gambe e pian piano ci prepariamo per aprire gli occhi e ritornare qua. Mentre io conterò da 1 a 6, 1, 2, 3, portandoci dietro, 4, un senso di gratitudine per ciò che sta accadendo qua, 5, grazie al contributo di ognuna delle nostre anime. E sei.